17. Il cardinale Riario. Il cardinale Riario Sforza venne esaltato alla sede arcivescovile di Napoli 6 mesi dopo la morte di Caracciolo, suo predecessore, e dopo il vicariato di Savarese. Troppo giovane ancora per tale carica, scarso di istruzione, privo altrettanto di pratica che di prudenza e di costumi sdrucciolevoli anziché no, aveva ottenuto il governo di quella chiesa mercé l'intervento di suo zio, il quale in quel secolo d'oro del papato disponeva a suo talento della volontà di Gregorio XVI. Per dargli un'infarinatura degli obblighi e delle cure vescovili, di che era totalmente digiuno, lo avevano tenuto in tutto quel semestre nella piccola sede d'Aversa. Il pontefice Gregorio se ne morì poco dopo aver fatto questo regalo alla capitale di Ferdinando II, che cordialmente ne lo ringraziò e Mastai gli succedette alla Santa Sede. Nei primordi del suo pontificato, sanno tutti che dava Pio IX somme speranze di sé. Egli era non pure liberale di fatto, ma, ad esempio di Aristide il Giusto, voleva altresì farsi conoscere per tale. Già da terribili larve funestati erano i sogni, fino a quel punto placidi, dei Pigmalioni d'Italia. Già questi popoli afflitti riaprivano il cuore a legittime aspirazioni, già si parlava di un concilio destinato a decretare lo scioglimento dei voti monastici 3 secoli innanzi definiti dal Tridentino. In questo frattempo fu spedita a Roma la mia domanda di poter lasciare il cenobio. Il cardinale Riario, bramoso negli esordi del suo governo di apparire zelante prelato, era venuto più volte a visitare il nostro monastero. Dopo di essersi trattenuto lunga fiata con la badessa e con un'altra monaca, esimia simulatrice, che si poteva pur chiamare la vera superiora, poiché nulla poteva farsi senza il suo consenso, era stato ogni volta salutato dall'intera comunità a bella posta convocata per fargli onorevole accoglienza. Io entrai insieme alle altre, ma presi sempre l'ultimo posto, lasciando le prime file a quelle che avevano più piacere di farsi vedere o di indirizzargli qualche mezzo complimento. Racchiusa nel mio silenzio, io avevo osservato che gli mancava il meglio, l'istruzione. Era evidente che il tempo speso dallo scopone in Roma era stato impiegato in tutt'altro che nello studio. Egli aveva imparato in Roma solamente la pasquinata, ma se voleva imitare i romani nel sarcasmo, non ne aveva però l'arguzia e la prontezza che danno al frizzo il vantaggio dell'opportunità. Per un mauvais plaisant tra Marfori e Pulcinella ci corre poco. Se affettando una mal preparata gravità prendeva qualche volta a rivolgere sia un'allocuzione o un avvertimento, duravasi fatica a raccapezzare quello che avesse voluto conchiudere col suo diffuso sproloquio. Idee disadattamente accozzate, termini e locuzioni impiegati male a proposito, costruzione oscura e disordinata. Benché inesperto nel parlare e più ancora nello scrivere la propria lingua, pur era pizzicato dalla vanità di farsi credere latinista, per cui nel suo ragionamento spesso mescolava dei proverbi latini o dei versetti della Bibbia. Ma io temo davvero che nel suo limen grammaticum, appreso nell'eterna città, abbia egli ritenuto in mente ben poco. Il modo, cioè, di coniugare il presente e il futuro d'un solo verbo, del verbo amare. Tale pur è l'opinione di 2 buoni terzi della romana società. Riario era allora in concetto di bell'uomo. Intorno ai gusti non c'è da disputare. Egli è peraltro indubitato che ciascuna delle sue visite elettrizzava le giovani benedettine. Appena uscito del parlatorio si radunavano esse in diversi crocchi, dove ciascheduna ingegnavasi di sorpassare le altre nel panegirico delle doti materiali e spirituali di sua eminenza. Chi diceva com'è bello, che nobile portamento, che sguardo fascinatore, che mano fatta al tornio. E chi diceva quanto è dotto e istruito, da quella bocca scorre il miele. Io dicevo tra me, egli non ha imparato che a star ben ritto su 2 piedi. Insomma, per più giorni e più notti, altro in convento non si faceva che pascersi dell'olezzo delle sue parole, quelle poi alle quali gli odorosi mazzetti erano stati diretti, rosse, palpitanti e distratte, divenivano per la gran commozione. Io non m'era fatta giammai vedere né gli aveva parlato, provava per la sua persona una di quelle ripugnanze insuperabili che si sentono a prima vista e non si sanno giustificare. Non so perché, ma sin dal principio, sin dal primo incontro, egli mi sembrò un dendino travestito da principe ecclesiastico. Volendo una volta far mostra di galanteria, mandò in dono alla comunità un gran canestro di fragole. Le monache diedero una piastra al cameriere e non rifinirono di magnificare la garbatezza del cosiddetto nuovo superiore. Credo che questo fattarello trapelasse fuori del chiostro e pervenisse a notizia di qualche bello spirito propenso alle burle e che avrà dovuto esclamare: «In quale parte del mondo non si infiltra la commedia?» Di lì a pochi giorni ci arrivò un secondo regalo. Un facchino, condotto da un cameriere, recò un pesce di enorme grossezza, tutto coperto di foglie d'arancio. Nel presentare quella mole, che nominò Storione, sciorinò costui, a nome di Sua Eminenza, un'interminabile litania di complimenti, mentre il pesce faceva grondar sudore dalla fronte del portatore. Un'altra piastra fu offerta per mancia al cameriere, oltre 2 carlini dati al facchino. Le monache, tutte ansanti, affollate nella portineria, ne giubilavano e quelle di loro che si appropriavano il complimento facevano a gara a proporre in favor del cameriere in livrea più lauta la mancia. Giunse in quel mentre il ragioniere: «Sapete, don Giuseppe, che il cardinale ci manda un altro dono, più magnifico del primo. Preparatevi a scrivergli una seconda lettera di ringraziamento in nome della comunità». «Davvero?» sciamò con un salto d'allegrezza il ragioniere. «E cosa vi manda?» «Un pesce? Ma che pesce? Ce ne sarà per le converse!» «E ne avanzerà?» Le converse leste leste tirarono l'ingente storione presso la porta. Il ragioniere si pose gli occhiali, lo guardò dal capo alla coda, lo fece voltare e rivoltare e, dopo d'aver ruminato tutto ciò che sapeva di teologia, disse atterrito: «Sapete, mo, signora Badessa, e voi, altre reverende, che questo mi sembra un pesce da museo di storia naturale». «Un pesce da museo?» ripeterono in coro più di 100 voci. «Il regalo è dunque molto più splendido che non avevamo creduto da prima». «Che? Che? L'è una burla, bella e buona, è un pesce che non si mangia». «Ma se l'ha portato il cameriere dell'altra volta», soggiunsero le monache. «Ho l'onore di dirvi che questo è un mostro». «Don Giuseppe mio, farneticate! Ebbene, fatelo vedere a qualche marinaio!» Mentre le suore tutte stavano ancora esclamando «Gesù, Gesù!», sopravvenne il pescatore della vicina piazza del Purgatorio, il quale, gettato uno sguardo sul regalo, gridò: «È un vitello marino, buttatelo via!» «Una foca!» riprese Don Giuseppe. «Ve l'ho ben detto io che è un mostro da museo!» Figuratevi, il dispetto delle monache, massimamente di quelle che si erano appropriate il complimento, fatto sta che la burla giunse all'orecchio del cardinale, il quale comprese che la galanteria costava più cara in Napoli che in Roma. Fu anzi detto che nel giorno medesimo avesse ricevuta una bella lettera di ringraziamento da parte della comunità di San Gregorio. Comunque sia, da allora innanzi si astenne di dare altre prove d'affetto a quelle suore. Venuto un'altra volta in San Gregorio, si trattenne egli lungamente con la superiore e con la solita monaca sua pedissequa. Le altre aspettavano impazienti di essere, secondo il solito, chiamate alla sua presenza. Furono invece dati al campanello i tocchi miei. Scesi alla porteria e trovai la badessa che usciva appena del parlatorio. «Il cardinale vuole parlarti», mi disse. Mi balzò il cuore. La mente mi ricorse subito alla domanda di assenza da già 2 mesi inviata alla Santa Sede. Il cardinale era solo e stava adagiato sul seggiolone. Al primo colpo d'occhio mi parve attillato con molta ricercatezza e un leggero profumo d'acqua di colonia si spandeva dalla sua persona nell'ambiente del parlatorio. Mi inginocchiai dinanzi al porporato, siccome l'uso, o meglio l'abuso, vuole. Egli alzò la mano, mi benedisse, mi fissò a lungo in silenzio, indi: «Voi avete avanzato una domanda alla Santa Sede per uscire del chiostro?» mi domandò con voce melliflua. «Eminenza, sì», risposi, tremante non meno di timore che di speranza. «E per quale motivo?» «Per cagione di salute». Si atteggiò ad ironico sorriso, tornò a fissarmi ben bene, poi soggiunse: «Ma voi non mi avete l'aria di ammalata?» «Eppure, se sono malata, Dio lo sa!» «E di che soffrite?» «Di mal di nervi!» «Oh, e chi non soffre di questo male?» «Di convulsioni!» ripigliai. «Tutte le donne ne patiscono! Isterismi, isterismi e nient'altro! Voi altre monache vi andate più soggette ancora delle femmine secolari!» Dopo una breve pausa gli dissi essere stata la mia domanda accompagnata dal certificato del medico curante. Ho poca fede nei medici, chi più chi meno sono tutti impostori. Ma il mio era giurato! Tutti miscredenti, tutti spergiuri, capissi già? Mi tacqui allora e dopo un'altra pausa ripigliò. Voi sapete che tutte le petizioni mandate a Roma dalla mia diocesi sono dalla Santa Sede rimandate a me. La vostra domanda dunque si trova nelle mie mani, a ciò che io ne verifichi l'esposto e dia conseguentemente il mio voto. Ora, per non permettere che vi pasciate di vane speranze, devo dichiararvi che il mio voto è contrario. Lasciate ogni speranza di uscire. Credetti d'essere percossa dal fulmine. Onde maravigliato egli dal mio sommo turbamento, mi invitò a sedere. Poi, raddolcendo la voce, inasprita nelle ultime frasi, «Ho parlato testé con la superiora», disse, «ed ella mi assicura motivo della vostra petizione non essere veramente la salute, ma sì bene l'affare del chierico». Io conoscevo appieno la parte che il cardinale aveva presa in quell'argomento. A siffatta rimembranza, destata da lui stesso, il sangue mi rifluì nella faccia e gli volsi un'occhiata di sdegno. «Vostra eminenza», dissi, sforzandomi a contenere l'alterazione nervosa che mi agitava, «vostra eminenza dovrebbe sdegnare di scendere a sì bassi e ignominiosi intrighi». «Oh, non vi sgomentate», riprese egli interrompendomi, «a quell'inezia non annetto alcuna importanza, essendo convinto che nulla di positivo sia passato fra voi e lui. Scenderebbe mai a livello di un semplice chierico, una nobile? Voglio dire, una monaca nobile, qual voi siete? Non di meno, l'idea di lasciare il chiostro è assurda, bisogna deporla». Fredda e impavida, gli dissi non credere che Iddio, il Santo Padre e Sua Eminenza avessero di comune accordo decretata la mia morte col prolungamento della chiusura. Ma egli, troncatami la parola, passò a intrattenermi per qualche tempo in estranei e futili ragionamenti. Quindi, alzatosi di repente, «Tornerò spesso a visitarti», mi disse, dandomi quella volta del tu. «Fatti dunque vedere di buon grado, né ti nascondere come hai fatto finora, e dammi inoltre il contento di sentire che hai discacciata dal cuore la tentazione di restituirti all'inferno del secolo. Capissi già?» Ritornai nella mia cella, dove mi abbandonai alla disperazione, che pur veniva esasperata dal sogghigno delle monache. Io le sfuggivo tutte, adempiti che aveva i doveri del coro, e gli altri d'infermiera, per la più breve via mi riducevo nella mia stanza dove o leggevo o meditavo o piangendo lavoravo. E là, più per bisogno di distrazione che per vaghezza di pubblicità, incominciai a scribacchiare queste memorie. Maria Giuseppa, la buona mia conversa, l'unica compagna della mia solitudine, non si muoveva dal mio fianco, che per urgente servizio e meno esperta di me, sulla pretesca simulazione andava immaginando, per confortarmi, le più folli e chimeriche speranze, alle quali spesso, traendo un sospiro, io rispondevo con quella dantesca apostrofe dell'astigiano, stirpe malnata e cruda che degli altrui perigli all'ombra ride. Mia madre, del pari, fu inconsolabile, avendo da me saputo che ad altre monache meno sofferenti, meno accasciate, era stato concesso quello che or veniva vietato a me. Il canonico tentava invano di rattemprarmi il cruccio. Non fu possibile. Io mi abbandonavo alla più sfrenata desolazione. Feci una nuova e più vigorosa istanza e la mandai a Roma. Coerente intanto alla sua promessa, Riario venne più di frequente al monastero. Ogni volta che il campanello chiamava la comunità al parlatorio, io mi sentivo rabbrividire. Per evitare quel disgustoso incontro, avrei dato non so che, ma come fare? Non appena giunto, egli diceva: «E la vostra caracciolo dov'è?» Benché fremente di dispetto, dovevo farmi innanzi e udirmi domandare con voce melliflua come stessi di salute e se fossi tranquilla d'animo. Complimenti del carnefice al condannato. Povera figliuola, è così buona. Non si vede né si fa sentire, rispondeva per me l'ipocrita badessa, solita sempre a lodare le persone nella loro presenza. Brava, soggiungeva l'eminente visitatore, così va bene. Un giorno la superiora mi fece mettere nella prima fila. Tale studiata preferenza indignò le monache, le quali bisbigliavano contro la badessa e dissero, dietro le mie spalle: Che fastidio! Si parlerà dunque in eterno della caracciolo! Eminenza, fece la superiora, devo denunziarvi questa signora monachella che ogni giorno più si atteggia misantropa. Fugge la compagnia, passa gran parte della giornata rinserrata nella sua cella e nelle ore di ricreazione non si vuole unire con le altre monache. Lasciatela un momento sola con me, disse l'arcivescovo in tono di potestà patriarcale. Le monache uscirono malcontente ed io mi sedetti a qualche distanza, curiosa di vedere come Sua Eminenza avrebbe intavolata la sua orazione. Ehi, si compose in atto affabile a fine di ispirarmi fiducia, si terse il sudor del volto con la pezzuola di batista, poi mi interrogò: Per qual motivo ve ne state sempre sola e pensierosa? Sarebbe anche questo un delitto? Quando adempio i miei doveri e obbedisco ai precetti, mi pare che gli altri non dovrebbero brigarsi delle mie abitudini. Però vorrei poter vedere attraverso le pareti ciò che fate per tante ore sola nella vostra stanza. Il confessore non deve internarsi in tutto? Leggo, scarabocchio, lavoro, e forse anche questa è un'infrazione? Oh, sicuramente. Non vi è lecito leggere o scrivere se non opere di devozione e di grazia. Che state leggendo e scrivendo? Cerco nella lettura di qualche libro istruttivo un conforto alla oppressione che m'abbrutisce. Sbozzo le memorie di questa mia captività per lasciarne un ricordo, se mi verrà fatto. Oppressione, memorie, captività. Ah, maraviglia! Dove diamine avete attinto questo frasario da carbonaro? Sapete che dovrei castigarvi severamente per tali fantasie spropositate? Potete fare anche questo. Mi manca solamente la catena al piede, ordinatela. Non me lo permette l'interesse che sento per voi. Pur non di meno vorrei farvi deporre questa smania maledetta di recuperare la libertà. Su questo argomento sono assolutamente implacabile, inesorabile, né ve lo consentirò mai. Tentate invano di togliermi l'ultimo barlume di speranza. Ho riscritto alla Santa Sede. Lo so, e io controscriverò sempre negativamente. Vogliate peraltro confidarmi dove vorreste andarvene uscita che foste di convento? In casa di mia madre. Ormai non ho bisogno di tutela, ma credo che nessuna donna possa custodire una giovine meglio della propria genitrice. Nel pronunziare queste ultime parole, gli occhi mi si gonfiarono di lacrime. Mi era balenata alla mente la memoria di mio padre. Il cardinale proruppe in un riso mefistofelico e disse: Pastocchie, vorreste piuttosto uscire per ballare. In casa di vostra madre si danno feste di ballo a liberali. Ma badi bene a quello che fa, altrimenti ci baderà la polizia. Quest'ultimo tratto esaurì la mia pazienza. Afferrato il lembo dello scapolare, con quest'abito aborrito da tutti, gli dissi, avrei vergogna di farmi vedere e ancor più di prendere parte a una festa. Non chiedo la liberazione altro che per riconquistare un bene supremo al cui godimento ho rinunziato per inesperienza, per debolezza, per forza d'avverso destino. Non posso, non posso, ripeté più volte il cardinale, rinforzando ad ogni passo il tono. Per ora, soggiunse, sto per ripartire alla volta di Roma. Appena tornato vi rivedrò. Ed io, da parte mia, non cesserò già mai di aspirare al mio riscatto. Buon viaggio! E quando ebbe voltate le spalle, gli dissi: Vattene alla malora. Ciò non di meno, l'abbattimento mio andava crescendo di giorno in giorno e il cervello cominciava realmente a risentirsene. Io confrontava le mie sofferenze morali con quelle delle due converse impazzite e temetti di trovarmi anch'io vicina a diventar pazza. Le speranze, riposte da me nell'animo liberale di Pio IX, andavano frattanto dileguandosi. Erasi prima parlato di scioglimento di voti. Si disse poi di una quinquennale rinnovazione degli stessi e in ultimo si spacciò che tale rinnovazione sarebbe stata ristretta soltanto a quanti avevano fatta la professione dopo il breve. Finalmente si cessò di parlare su tale argomento. Nell'animo di Pio IX l'emancipazione monastica e la patria carità subirono la medesima sorte. E quando Roma non voltò mantello? Mio primo intendimento, come ho già detto, era quello di uscire per soli 6 mesi, riservandomi di rinnovare il permesso al termine di questo periodo e di passare da quello in altro chiostro, nel caso che mi fosse negato il prolungamento. la capricciosa repulsa, l'avermi ricusato quello che tutti i giorni si concedeva a tante che ammorbavano Napoli, massimamente in tempo d'estate queste cose mi punsero al vivo. Era evidentemente un tratto di personalità a cui piuttosto che soccombere avrei rinunziato all'esistenza stessa. Da quel momento diedi l'addio ad ogni sorta di palliativo, di mezzo termine, e mirai addirittura al definitivo scioglimento dei voti. Raccolte dunque delle informazioni intorno a tale bisogna, letti più libri su questa materia e abboccatami con un dottore in jus canonico, seppi che conveniva anzitutto mandare il reclamo prima che fosse espirato il quinto anno della professione, che bisognava poi provare la violenza morale nell'atto della monacazione e infine che la causa doveva trattarsi prima alla curia di Napoli e poi a quella di Roma. Lo che avrebbe preso molto tempo e moltissimo denaro con scarsa probabilità di riuscita. Questi ragguagli mi sconcertarono. Prossimo a spirare era il quinto anno della mia professione. Poi la curia di Napoli avrebbe essa urtate di fronte le disposizioni di un cardinale arcivescovo per esaudire i reclami di una monaca priva di protettori. E poi dove mi sarei procacciata il denaro necessario per spedire personalmente l'avvocato a Roma e per dare l'inevitabile boccone alle signorie reverendissime di quella capitale. Questa triste prospettiva, dico, mi sbigottì. Nulla di meno, per non cadere nella prescrizione, deliberai di mandare ricorso alla curia napoletana e così feci, mettendo in luce le circostanze tutte che fecero violenza alla mia volontà, dal punto che entrai nel convento sino al giorno dei voti. Quale fu la sorte di questa istanza? Fu essa intercettata alla curia di Napoli che non le diede alcuno sfogo o invece cadde negli artigli del cardinale che se ne impossessò? Non mi venne mai fatto di penetrare questo mistero. Certo si è peraltro che l'istanza mia sparì senza lasciar dietro di sé alcuna traccia. Trovatami pertanto alle strette, né più sapendo che mi fare, divisi di scrivere addirittura al Santo Padre, a fine di aprirgli il mio cuore, manifestargli le mie disposizioni con filiale franchezza, muoverlo a pietà del mio stato. Pio IX era tuttavia in grido d'uomo d'alto ingegno e uomo di mondo. Nella relazione che per lui in particolare scrissi, credetti a concio non tenergli soltanto parola della mia salute, che di giorno in giorno deperiva, ma notificargli, zian Dio, alcunché di non meno rilevante, cioè che avendo avuto sin da giovinetta inclinazione per il matrimonio, sarei passata a marito ove gli avesse condisceso a svincolarmi dagli obblighi che mio malgrado aveva contratti, trasportata dalla corrente di disastrose e fatali circostanze. Per rendere inviolabile il segreto della relazione, immaginai di premettere a quell'istanza il confiteor, orazione la quale, come ben si sa, precede la confessione auricolare. Il cardinale era frattanto ritornato da Roma. Venuto al monastero, volle trovarsi di bel nuovo a quattro occhi con me. Inaugurò il colloquio facendomi dono di una corona benedetta portata dalla santa città e chiese in ricambio un qualche lavoretto di mia mano. Il regalo mi parve di cattivo augurio. Più bramosa della mia libertà, che vaga di tali ninnoli da Sant'Occhia, dissi corrucciata a sua eminenza che io non sapea fare nulla di lavori donneschi. «Non è vero», disse egli leziosamente, «non mi sono ignoti i vostri voti, applicatevi a qualche cosa. Ad un elegante ricamo, per esempio, ciò vi servirà di distrazione». In questo mentre si fece innanzi l'abbadessa, e saputo dal cardinale il mio rifiuto, torse sdegnata il viso. «Il lavoro sarà fatto immancabilmente», disse in tono imperioso al cardinale. «Glielo farò avviare e terminare io stessa». Per più giorni mi annoiò reiterandomi la domanda se già l'avessi incominciato e di quale sorte sarebbe stato. Stizzita al fine dall'incessante molestia, le dissi «Vorreste forse impormelo per disciplina?» «Oibò, spero che lo farete di buon grado». «Allora, con vostra buona pace, fatela finita. Io detesto quell'uomo quanto un prigioniero di Stato detesta l'autore del suo imprigionamento. Non è forse adesso che a viva forza mi trattiene in questo stato di violenza?» «Ma lo fa perché ti vuole bene?» «Mi vuole bene? Obbligatissima! Dio voglia che mi porti odio invece di quella funesta amicizia!» «Ora però», soggiunse la badessa con affettazione, «ora dovresti passartela più tranquillamente. Quelle fraschette delle monache giovani non ti importunano più». «Me ne accorgo», risposi, Temono che io, uscita per avventura dal chiostro, non le paghi a contanti come si meritano. La superiora si morse le labbra. Seppi di poi che l'argomento del mio congedo, considerato come peccato politico e messo nel numero degli affari di Stato, preoccupava più che io non immaginassi le autorità, e che tra il riario, la badessa e il confessore regnava su tal proposito un'intelligenza non meno arcana che intera. Un'altra volta, avendo saputo che dall'ufficio di infermiera io era stata trasferita a quello di panettiera, il cardinale venne a recarmi le sue congratulazioni e di più a domandarmi dei dolci fatti di mia propria mano, e gli ebbe la stessa negativa. Dovette più tardi visitare il convento per affari della comunità. Disbrigata la faccenda che ve l'aveva menato, si fece condurre dalle monache nella mia cella, che prese ad esplorare a parte, quindi. Uscito sul terrazzo e scorto lì di faccia il Vesuvio con le adiacenti colline e con l'ameno paesaggio che intorno intorno lo corteggia, disse: «Di quale magnifico prospetto gode la vostra stanza! Che immenso orizzonte! Questa vista solleva il cuore e edifica lo spirito, e voi volete lasciarla?» «Questo prospetto, risposi, non fa che rendere più sospirato al prigioniero il bene della libertà». Ma voi siete libera quanto basta. Chissà che una dose maggiore di libertà non vi tornasse dannosa. Con simili detti era pure confortato dal suo tiranno l'afflitto popolo di Agrigento, risposi a Sua Eccellenza, accompagnando l'ironia con un sorriso. M'intese, si tacque e partì. Era quello il tempo dei monsignori Apuzzo, de Pietro Cola, de Del Carretto, il tempo in cui, a furia di sofismi, si era elevata a dignità d'assioma la dottrina che il popolo delle due Sicilie, troppo felice nello stato di innocenza pecorina in cui viveva, non dovesse punto correre il rischio di restarne defraudato col cercar di spingere le sue letterarie cognizioni più in là dell'ABC. In qual parte del mondo cristiano non risuona l'ignominia del catechismo di Monsignor Apuzzo? Potevano l'oscurantismo clericale e il dispotismo borbonico lasciarsi addietro un monumento più infame di questo? Circa un mese e mezzo da che aveva spedita la lettera al Santo Padre, mi venne incontro il confessore tutto contristato e di pessimo umore. Veniva dal palazzo arcivescovile. Chi lo crederebbe? Quella lettera, di cui io sperava aver fatto un mistero allo stesso canonico, era stata rimessa tale quale originalmente al cardinale arcivescovo. E il segreto epistolare? Violato. E il sigillo della confessione? Infranto. Sua Eminenza voleva sapere dal canonico il come, il quando e il perché avesse costui permesso che tale scritto fosse stato diretto a sua beatitudine, e chiedeva inoltre se qualche procellosa passione mi avesse suggerito tale espediente. Il canonico asserì di non saperne nulla, almeno così mi disse. Sono tutti di una buccia. È certo però che nella confessione io mi ero fatta una legge di non rivelargli se non le mere infrazioni alla disciplina. Il cardinale, saltato in collera per questo tratto novello di ciò che egli piacevasi di qualificare col nome di mia irrefrenabile cospirazione, lasciò trascorrere lungo tempo senza venire a trovarmi. Intanto quella lettera, caduta in sua mano, troncava l'ultima mia speranza di vedere prossimamente terminato il mio purgatorio. Se non che, in luogo di quelle illusioni che di mano in mano svanivano in sul nascere, andava per me spuntando un diverso e più chiaro lume di salvezza, ridesto nel sepolcro, ove, chiuso da già 27 anni, giaceva, il genio dell'italica libertà scuoteva dal crine la polvere della tomba e riprendeva più bella e più forte l'antica sua vita.